fatto, dai, sta diventando le switching, quelli cinesi, là. Mi fa alternata, boh. Ma racchio, come manda QRM? Non so perché, boh. Vabbè, io siamo andati un po' di elettronica, ma non riesco a cavarne piede, non lo so. Non lo so, adesso mi sto sistemando un televisore, sto aspettando che me ne portino un altro, devo cambiare il pannello, LCD, vediamo un po' se parte, ma penso di sì. Penso di sì, appa. Ma no, non ci dà bene questa radio, non ti piace? Ambro forse di là, basta che le ricavo, questo di che ho speso. Come ti ho fondato di comparacchi, non mi piace. Ehi, cuocone, comunque, Cla, buongiorno. Allora, aspetta, stacco tutto. Allora, praticamente l'alimentatore, quello che ti ho detto da switching, quelli cinesi, no? C'è dal filo staccato, della 12, che va attaccata alla manina con la femmina, diciamo, là. Perché ne ha due rossi e due neri. No, acceso tutto a posto, adesso lo stiamo facendo, però si è attaccato adesso, di meno non me lo fa, Ma quale, sempre con l'alimentatore, c'hai oggi? Quel microfono ti devi cambiare, lo fate andare uno da Massimiliano, non mi piace, sei il cupo di radio. Ehi, Clara, guarda si è staccato dalla bocca adesso. No, ancora peggio, non c'hai più radio. Ehi, vabbè, adesso mi farò un salto da GBC, compro quello Telecom, o Gambacaibu. Non so, quello non serve, quello non... Non c'è la modulazione corposa come c'è Massimiliano, Gianni, quelli che usano quel baracchino. Anche quello che c'ho io è buono, me l'ha dato della CT, me l'ha dato Gigi. Le chiederei a Gigi, avrei se ne ha qualche d'uno lui. Boh, quell'alimentatore c'ha qualche problema su qualche condensatore, qualcosa che è in perdita. Boh. Boh, no, so peccato, è tanto ampere, ma guarda, è un bombo. Attacco la ventola, fa dentro il baracchino. Perché è la ventola che sta creando quel problema. È il circuitino della ventola che sta creando quel problema. C'è qualcosa lì, capito? Vabbè, dai. Vado a farmi il caffè. Ci sentiamo dopo, se siete qua ci sentiamo dopo, ciao. Sì, anche là dopo, ciao. Forse ho trovato il potenziometro per dietro, per la regolazione del coso, del parlascolta. Sta di lettura. Ciao, oggi, sei genio. Cambio. Genio, perché il vento è boh. Proprio la punta dell'antenna sta tirando di fianco, non so se è greccare, boh. Genio, ha fatto un travaglio lui, a rasura, ma da pazzi, con la scaletta legata al tubo, mamma mia, che non ci voglio pensare. Mi ho tolto da tre elementi, bracci da 8,50 m. Di capo. Ma era bello, non c'era un filo di vento ieri lui, se non lo facevo ieri. Ho fatto un po' di pulizia alla grande, adesso devo sistemare il dipolo degli 80 metri e boh, e ho lasciato la verticale nel traliccetto, la verticale con quella VU e l'antenna 5 elementi per i 50 MW del motore. La 3 elementi l'ho tolta, troppo enorme, troppo grande, la stava tutta rompendo. Se no non la recuperavo più. Anzi, qualcosa l'ha rotta, adesso vediamo, deve prendere Andrea a sistemare. Cazzo, ma ogni travaglio, mamma mia, come sto. Lo posso immaginare. Cioè, non è semplice fare un'antenna a una mantova, che non è semplice, voglio usare, no, se c'è il vento poi ti crea problemi. Pensa alla divisi. 200 kg pesa. Per abbassarla 200 kg, no, forse di 100, più di 100 kg sono. Ma come ho mollato, raggiurami, mi sono abbassato, come ho mollato i ganci, boom, è scesa da sola, e poi mi sono dovuto appendere per staccare tutti i bracci, ma... vabbè, ce l'ho fatta comunque, ci ho fatto Massimiliano, Tino, Andrea, però con questo casino non si potevano muovere, agitare sul rischio, vada come vada, ci prego che non ve la volto, la mollo, e ne cagerà sola se la vedi al culo, faccio piano piano, sono riuscito a sfilarle, capito? Cazzo, vado nel cavallotto che aveva 17, figura di due, ma tanto è pesante. Non vale cavallotto che aveva 10. Ma pesante, i bracci sono lunghi, sono da 8 metri. Il più lungo è quasi 9 metri. Poi c'ha le bobine attaccate, quindi sono pesanti. Vabbè, oramai è fatta. Attento, genio! Aspetta, la va subito, vabbè, lo sai che mi sei rotto anch'io, ce ne sono problemi. Ci mancherebbe. Lui, eravamo organizzati, tu, insomma, un po' tutti, la verità. E poi sono offerti anche alcuni amici radioamatori di Alghero. Però stava diventando troppo triste, capito? Alla fine mi si sfasciava tutto. Si sfasciava tutto. E allora ho rischiato. Tanto un radiale l'aveva già buttato giù il vento. L'aveva staccato dal cavallotto, figurati, sfilato, completamente sfilato. È caduto in terra. E allora ne ho approfittato e ne ho tolto anche gli altri. Ma il radiatore mi ha fatto... perché c'è il direttore, il radiatore e il riflettore, capito? Tutti i radiali grandi. Infatti il radiatore mi ha fatto, dove sono i cavi attaccati, mi ha fatto dannare. Infatti i cavi li ho tagliati con la taglierina, sono stato lì a svitare, no? A svitare manco ci arrivavo. Va bene. Importante, abbiamo recuperato tutto, eh. Genio. Ma devi fare i soldi. E io adesso l'ho messo da parte, poi vediamo. Uno in tutti a gratis, capiti? Io ci pagano da quelli di nano, no? Io me ne regalata. L'antenna costa 700 euro, più 350 il rotore. Sono 1000 euro, più di 1000 euro. Che regalo? Sta regalo pure. Sì, sta regalo. La verità l'avevo promesso a Tino, mi dispiace. Capito? Però adesso rimane lì. Rimane lì, la faccio riparare da Andrea e poi vediamo se si può riparare. Bobine sono tutte piene d'acqua, non ho capito perché. Che casino, un casino, cavolo Claudio. Ma tu che baracchino c'è modificato a casa? Sempre 48 che avevo preso a Gigi, sempre quello, che l'hai sentito qualche volta. Poi un paio di mesi stavo usando il baracchino di Superstar, quello lì, quello che c'è tu, quello era qua. Quello era qua, quello di Massimiliano, quello era qua. Capito? Era qua, era tutto qua la roba di Massimiliano quando stava facendo i lavori, stavo usando quello. Poi quando Massimiliano l'ha separato via tutto, l'ha venduto e te l'hai comprato tu. Però io quello lì usavo il microfono della LAN 48, lo sai quanto funziona bene. Ce l'avevo qua, quello verde. Quello lì, vabbè, ma noi abbiamo una modulazione diversa, lui. Io ho più toni bassi rispetto a te, capito? Lo portavo molto molto bene. Bisogna adattargliene uno qua. Appena il tempo ce lo permette, io facciamo le prove, non c'è problema. Gava, come mai sei da tua madre? Perché ora vado a fare qua, c'ho due TV da riparare. Ascolta, quel cavetto che ci mette dal telefonino allo smart TV, come cacchio si chiama? Non è il cavetto USB, c'è un altro nome? Allora, quello del telefono non lo so come va chiamato, però l'altro è HDMI. HDMI, dovrebbe essere quello, capito? Perché c'è 50 giga e mi hanno detto che posso collegarlo alla smart TV, io ho la smart TV, fa da router praticamente, capito? Basta andare in modalità wifi e fa da router e puoi guardare internet sulla smart TV, tutto quello che vuoi vedere. Però ci vuole questo cavetto, mi sembra che sia quello, HDMI, così diciamo. Ma guarda se c'è la connessione wifi, se c'è la bluetooth qua, se c'è la connessione bluetooth funziona tramite bluetooth. Senza cavetto, sì che ce l'ha. Sì. Maria c'ha il telefono buono, che fa pagare 400 euro. Adesso non so se il 10 o il 9, non lo so, comunque uno degli ultimi, là. Adesso glielo dico. Con la modalità wifi bluetooth, quello lì funziona senza niente. Penso di sì, là. Io smart, ho le Panasonic a casa, poi il mio è praticamente là, l'ultimo è l'S20 uscito. Io ho l'S10, tra fine avrà l'S8, se no fai No, mi pare sia l'S10. 400, boh, quasi 500 euro va a pagare. Forse un anno. Forse un anno, boh, non lo so. No, ve lo dico a vedere, perché lei c'ha 50 giga, capito? C'ha 50 giga. Ieri stavo guardando un film sul telefonino, infatti gli ho detto, ora puoi guardare, ma ci vuole un capo speciale, non mi ricordavo il nome. Se però funziona in modalità wifi bluetooth, adesso lo proviamo a vedere. Sì, dovrebbe funzionare. Allora, il mio costa 700. Quello che c'hai tu sì. Però non lo puoi attaccare alla televisione perché non c'è lo smart TV. No, io lo smart non ho, te l'ho detto. C'è un Panasonic che è al plasma, ma funziona benissimo finché va, è nuovo. Sì, io l'avevo comprato quando mi avevano liquidato, avevo comprato il televisore da 50 pollici smart TV per il salone. Quello c'era il salone e me l'ho messo qua in stanza, attaccato al muro, tolto la staffa, fatto i perni dietro, con gli anelli, i tasselli e l'ho aggancio, attaccato al muro. Quello che hai riparato tu funziona che è una meraviglia, cazzo. Sei un mostro, Giddu. C'hai le mani d'oro. Sì, di faccia. Cazzo, io l'ho buttato due voci a ripararci delle visioni. Durava tre mesi e non attendia. Durava tre mesi e non attendia. Cazzo, quando è che l'hai fatto? Due anni fa. Claro, è a fortuna con le TV. Ne ho riparato altre. A chi è andata bene e chi è andata male. Questo ragazzo me l'ho sistemato. Mi sento un cospetto. Infatti mi ha pagato. Sono restituendo i soldi, ma lo sto facendo lasciare io. Adesso me lo sistemo io. Sì, ragazzi. Che invece le veci ho, però per la stanza qua, capito? Per la stanza qua io mi guardo le partite perché ho il decoder esterno piccolino che metto la cam e mi guardo le partite per non rompere le balle a loro. Solo che va, è tutto un remo. Tutti qua me ne sono diventati cacciatori, Bibala, tutti, anche dell'Inter, cioè, del Milan. Tutti con il coronavirus, cioè. Se non va, se vanno a Natalino con Cuomo, ne provincia va. Tutti amici Natalino sono, tutti con Cuomo ne sono quelli. Sto aspettando, vabbè, su Cappelli. Quando arriviamo un televisore, solo che il tipo è a piedi lo stesso. A piedi non me lo vuole portare perché non si fila mai, se lo fermano è un casino, perché non c'è manco il foglio di uscita. Usava le vizi, quindi stanno a portare il televisore, mio amico. No, guarda, io sono andato poco fa a caricarmi il telefono da Zia Maria, mia caro Felice, per non andare al Tris, per non andare molto qua, sempre a Carbonati. Ho fatto il giro poi da dietro, l'aerospin via Caro Felice, vicino alla Banca Intesa, c'era il Vigile Urbano e mi hanno fermato. C'avevo, vabbè, in regola con la macchina, tutto. Mi hanno detto, da dove sta arrivando, ho dato il foglio, c'è scritto, spesa, e tabacchino. E niente, non mi ha detto niente. Ma tu dove stai andando adesso? A casa, qua dietro. Va bene, mi raccomando, non stia in giro. Ma che cazzo devi stare in giro? Un che cambretta di tutto dove fa andare. Ma non c'è mai una sisina da spendere se buttare lì. Ma io, tu lo sai, mamma, c'ha tante patologie, se esco senza problemi, perché la verità non mi tocco in giro. Mi balivino cammini a casa, cioè non mi balivino, già non fa male stare a casa. Lo so lui, io sono a casa forzato, perché io nonostante sia, non lavoro più, però lavoro ancora. E stare a casa non è facile, dai. Perlomeno, almeno la mattina. Andare a lavorare oppure uscire un'oretta così, andare a trovare qualche amico, metti una cosa e rientrare a casa. Certo che devi inventare. Io adesso tra un po' mi organizzo, devo sbrinare il frigo. Ieri mi sono fatto le antenne, oggi mi sbrino il frigo, poi c'ho l'ultimo sifone da fare, mi faccio, prima ci sia troppo caldo, i cassoni degli avvolgibili, già ho preso il bianco. Mi farò sicuramente, darò un'altra passata alla ringhiera. E cosa fai? Se sei a casa, cazzo, a che cosa devi fare? Si conferma, tanto a tempo buono devo imbiancare la cameretta della figlia di Marina, poi qualche ritocco in camera da letto, già è bianco comunque. Dove ci sono i punti magari più neri, dai, dovuti dalla, purtroppo da quello disso che c'è il terrazzo, penso c'è qualche perdita, non lo so, comunque umidità, dai. Sì, vabbè, via. Cosa mi preoccupa se riusciamo a farci una bella estate, se no è un bel casino, veramente un bel casino, non riesco a capire. Comunque stavo leggendo il computer, ce l'ho acceso, ma Windy 3 adesso è, se non vado a caricare il computer, Windy 3, non è più 3, ma non hanno mai cambiato il numero, cazzo. Allora, chi può lavorare, chi resterà a casa, direi di vieti leggere, borse ancora in forte calo, risale lo spread, poi c'è scritto in discesa contagiati, va. Piscoli news, conti confiandusi, Sì, bocca al ossigeno come canzone del governo. Comunque in discesa, contagiati, eccetera. Vabbè, meglio così. Claro, ma se dobbiamo stare a casa, dobbiamo stare a casa. Inutile che ce ne andiamo in giro, capito? Quello è. Dobbiamo stare a casa e basta, inutile. Poi ci agguariamo, se Dio vuole, speriamo, perché siamo una troppa gente. Infatti, sicuramente già si guarisce. Però noi ci siamo qua a raccontarcelo, capito? Loro non ce lo possono raccontare, ma noi sì. E speriamo bene, che finisca tutto questo baravà. Forse ancora in forte calo, oltre decreto tutti i divieti, regione per regione. Vabbè, comunque, sembra che stia contagi e vittime in Italia e nel mondo in calo. Perfetto, piano, dai, già ci riusciamo. Speriamo bene, Cla, speriamo bene, perché chi è a patologia è proprio a rischio. Non so, Luca. Se tutti facciamo le cose fatte bene, sono sicuro che ci riusciamo. Se le facciamo la cazzo di cane, allora è un casino. Adesso ti vanno a mettere 250 euro di multa. Castagneggia! Cosa ha 250? Castagneggia a voi! Lo so, speriamo bene. Va bene, dai. Ci faccio una cazzetto così. Bei segnaloni ciò, da quando ho sistemato le antenne, tutto a posto. Ah, si sente. Dove sono? 40 metri. No. Sente bene. A voi. Sì, sono le 9:20. Quando c'è le antenne giuste non c'è niente da fare. Genio, attento Eugenio. A Gelu che ha fatto il caffè. Mi prendo un caffettino, dai. 2 minuti già sono qua. Sì, intanto ti faccio una prova al televisore, fai tranquillo, fai. Cavagava. Che avanti? Sta uscendo un bel male, Baracco. Sei saturo, non è se ne FM. No, sta facendo malissimo. No, lo senti a Barracuda? Chi è lui? Barracuda, ora un po', sta uscendo male. No, Antonio, non ho capito niente, stai uscendo basso di radio, blu. Devo fare proprio con Luca che me ne può allontanare un attimo io. Sta uscendo male, Barracco. È bello che via qua sono clammi. Mi sta facendo una prova, già funziona con quella televisione, mi senti? C'ha il pannello danneggiato, infatti sta aspettando che porti il nostro televisore così lo sistemo. Ah, beh, non riesci a sistemarlo. Sistemi la lampada e poi si mutti, è nuovo, secondo me c'ha meno di 2 anni. Pannello? Ha meno di 2 anni. Ma cosa c'ha? Cioè non funziona? Il pannello si vede tutto a righe. Allora, ti spiego, l'avevo già sistemato qua. Siccome il pannello, allora, diciamo il flat di questo pannello qua ce l'ha ai fianchi, ma c'è quello che ho messo io, c'è la centrale, siccome la centrale ci va un bullo, una vite, no? E c'è una specie di rialzo. E sicuramente come l'ho chiuso, stava andando perfetto, funzionava benissimo. Quando l'ho chiuso, cosa è successo? Che mi ha spaccato una specie di un vetrino già sopra questo flatto, non so come viene chiamato. E ho danneggiato il pannello, adesso cosa faccio? Con l'altro pannello che mi devo portare, c'è l'altro televisore che mi portano, ne taglio un pezzo di lamierino, mi faccio uno spazio su, vedrai che lui funziona una meraviglia. Sì, le modifiche si fanno anche nei computer. No, questa non è, vabbè, questa è una specie di modifica, per, purtroppo non è suo il pannello e lo devo adattare. Comunque ho già provato e ha funzionato. Sì, materia ragazzi, non ti preoccupare, già va bene. Fai un po' a barracuda, là, sistemalo tu. Dov'è? Zia Antonè. Cosa si comprende Antonè? Come mai non esci? Uscivi così bene ieri. Ma sei saturo, cupo, boh. Va bene, dai, controlla, già sono qua Antonè, se ti servono controlli che sono al computer. Ehi, chi è? La chiamata Antonè, ho detto che vento è oggi? Perché qua sta tirando... Boh, sembra da greccare. Oggi greccare forte. Ehi, non c'era più problema. Infatti me ne sono accorto perché io mi baso sulla direzione dell'antenna, capito, la verticale in fibra. E sta soffiando da praticamente dalla zona di Castelsardo a venire in qua, quindi greccare. Non avevo sbagliato allora, anche perché è freddo, cazzo, ma è un freddo a Sassari. E la salvia, io ieri ho fatto un lavoro sul tetto allucinante, ho rubato tutto, quello pericoloso, quell'antenna grande, tre elementi da 10 metri di braccia, tutta a terra, non c'è più nulla che può fare danno, quindi sono più che tranquillo. Adesso può fare il vento che vuole, il sistema è abbassato, così dormo sereno, come d'estate, vuol dire, ci metteremo qualche altra cosettina e lo tiro su, ma ora rimane abbassato, sì, sono tranquillo, con quel vento l'ha fatto l'altra volta e sul beccio, isso gas in arena piazzata. È grosso c'è quello torce. E poi tu, abituato a vedere il mare tutti i giorni. No, io già me la cavo con i venti, è la verità. Infatti mi sono accorto che greccare, però non ero molto convinto. Non ero molto convinto, ho chiesto conferma a te. Va bene, quindi pensi che a mezzogiorno salga? A Sassari tocca molto il beccio, minchia, il beccio fa un danno allucinante a Sassari, ce ne ha fatto poco danno a radioamatori, mamma mia, che era un casino in questi antenni. Percale un po' meno, io temo molto il maestrale, se è forte forte, se no non è che sia così, ma il beccio mi disintegra già tanto vecchio, una cosa allucinante, davvero, lo prendo in pieno. Davvero? Buongiorno ragazzi. Massimino, allora ci ho letto bene al computer, ferma anche l'edilizia. E sono ma oggi però. Sì, da oggi a Chiavà si organizza, da voi avete scritto il computer. C'è scritto nel computer, guarda, ce l'ho acceso, infatti stavo per mandarti un messaggio. Giù d'Italia, sindacati in rivolta, sotto inchiesta la comunicazione ansiogena di Conte. Chi può lavorare e chi resta a casa. C'è anche l'edilizia. Mi appigliamo ai suoi aiuti. Ma attimo che si è ferma. Addio. Ciao G, buon giorno. A me te vale. Anche tu sei fermo, no? Ah sì, dice ferma da camuranza. Io. La pagava, andrà bene. Oh, qua, mi aspetto una guillo. Ciao Luca. Massimiliano, questo va parecchio. Carino, va. Sai quel capo di troppo? Cosa vuoi che sia? Sapevo nuovo però. Vabbè. marchiato c'è? Non credo. Allora c'è il cuda a fianchi. Non facevo una cosa marcata c'è quando va 50 watt. Ah, infatti. È vero. Ma io che non c'è in America però. Io che c'è a Susso. Però qua è un casino. Io che c'è a Susso, Massimiliano. Ehi, sono 5 di luglio. Io sono tornato adesso a fare un po' di spesuccia. Stavo con i burrucani congelati, buh. Davvero? L'hai visto? Cioè, come stava la... si chiama? La cinghiale, adesso anche il cane. Vai anche al prossimo anno, anche il gatto, va. Gesù che... Beh, Massimiliano, quindi com'è la situazione? Allora, la situazione è questa, che poche parole non lo sapevano, non lo sanno manco loro ancora. Quindi, per non fare brutte figure, oggi ci hanno fermato, ma oggi si informano, ma molto probabilmente noi al 100% ormai lavoriamo. Sì, non dire al 100%. C'è scritto anche edilizia. Fermo Italia anche per l'edilizia. Quindi io non so come siete organizzati voi, che è il contratto avrete, però il fermo Italia sino al 5 aprile è anche per l'edilizia, voi, non lo so. Io continuo a ribadire quello che ti ho detto, per me è meglio che vi fermate anche voi, se dovete lavorare, ben venga, però non perdete niente, quindi adesso si documenterà il tuo titolare, già metti lì. Va bene, avanti, Lu. No, insomma, si è allontanato là. Ehi, cara, dai, vado a Guglio. Hai capito com'è la situazione, cara? Allora, la nostra vita è edilizia, però, ti ripeto dall'altra volta, i muratori sono fermi, perché lavorano vicino e stanno a contatto. Noi con i mezzi e con i camion, ognuno ha il suo mezzo e non sta in contatto con nessuno. Quindi si stanno informando, molto probabilmente si stanno informando adesso cosa devono fare e cosa non devono fare, capito? Se non c'è un decreto che arriva al mio titolare, il mio titolare non si ferma, perché lui dice io ti metto dentro la cabina, ti metto in condizioni di viaggiare in sicurezza. E tu tanto poi, la ricetta di mangiare nel 5 di sera, stai dentro la cabina, non stai a contatto con nessuno. Hai capito cosa... Lui dice così, poi bisogna vedere il decreto cosa dice. Per uno muro non va vedere. Ehi, oggi l'edilizia sì, ma noi abbiamo una parte di muratori, che li ha fermati, hai capito? Sta lasciando solo quelli che fanno movimento terra. Vabbè, dai. Massimiliano, lasciamo perdere. Non è il bar, che ti ho detto la vedo io, per il gazzeggio, hai detto un po' più bravo. Ci deve fermare tutto, questo diavolo, ma siamo in movimento terra, l'edilizia, ci deve fermare lì, ci deve fermare anche il movimento terra. Se c'è scritto oggi con pregio, questo mi sta contro Giulio, No, ma la travaglia lì si fa il movimento terra, quelli che hanno gli altri tutti a casa, ma di oggi non va vedendo. Tutti si devono fermare, tutti siamo a rischio e tutti dobbiamo stare a casa, punto e basta. È molto chiaro il decreto. Generi alimentari, tabacchini, farmacie e parafarmacie. Boh, basta. Il fermo Italia è per tutti, punto. È a capo. Meccanici, carrozzieri, verniciatori, cavi di bugnetta, tutti devono rimanere a casa. A qui che ha conto Giulio. Cosa vuoi ti dica? Io se non ce l'ho con te, no. Non ce l'ho con chi si fa leggi per i fatti suoi. Ho capito. C'è scritto al computer, bello, in grande, ma in grande, va. Fermo Italia, nuovo decreto di ieri, in vigore da oggi, lunedì, da oggi, ecco perché vi ha fermato, da oggi. Il fermo Italia comprende tutto, cazzo di casino che vero. Ti serve di assegnare che ho tutto, ma lo più bello. Cosa c'è tra moratore, non moratore? Fermo Italia per tutti. Cazzo già è dove speciale. Adesso voglio fare una telefonata, provaciamo questo a Vittorio a vedere se stanno lavorando in cava, anche loro fanno movimento a terra, no? Esce a vedere. Guarda, sto guardando la ditta di Gavino che fa l'estrazione giù a Coso, a Salidirro. sono chiusi, fermi, tutto parcheggiato, tu un per pale, tu. Mi voglio togliere una soddisfazione, perché questo movimento a terra, questi scavatori, questa cosa, ne conviene allora che dovessi fare due a contro Giulio. Adesso voglio fare un telefonato a Vittorio io, a vedere se loro ci hanno il decreto. Più decreto di quello della cava, che parte tutto dai chivi, e ci avete. Aspetta un attimo, Giulio, parla con Massimiliano. Antonio, hai sistemato? Un attimino sono al telefono. C'è anche Antonio Baraccura, un attimino che sto al telefono. Io ho capito, sì, Claudio ha pienamente ragione, capito, però ognuno che si fa già con tutto il suo. Allora, ma ci vediamo, tanto ti saluta Vittorio, ok, sta andando a fare la spesa a Palmadola, e Mietto già lo conosce, non ti preoccupare, che è un pogare di Santio, va a Orizio in Busciacca, non perde niente, loro sono tutti fermi, hanno organizzato tutto venerdì, perché sapevano già che succedeva questo, e da oggi sono tutti fermi, sino al 5 di aprile, ok? Sino al 5 di aprile sono tutti fermi, tutto il movimento a terra è tutto fermo, quindi mi da farsi un giro in paglietta, audito la rendoio, e a seguire le leggi, che non è rubadrono dell'universo. Te l'appoggio. Massimiliano, con tanto rispetto, lo sai, la stima che ho nei tuoi confronti, però state sbagliando, non ci dovete andare. Si dice domani o no, noi non ci veniamo, mettici in cassa integrazione, come il decreto dice, non perdete manco una lira, Matteo Vittorio, niente. Loro hanno firmato dei fogli che gli ha dato l'azienda, sono in cassa integrazione. Quindi sono tutelati, addirittura due di loro che sono più anziani si sono messi in malattia, ok, in quarantena praticamente, malattia, e non le viene conteggiato niente, non le viene tolta manco una lira, nulla. Chi come pare già lo conosce Vittorio, già lo sa chi è, sì. Già lo sa chi è. Addirittura mi ha detto Adamo, l'officina toletana è aperta perché a parte quello che fa, c'è anche la situazione acqua, quindi per gli interventi per conto di Abanoa sono in turno, a turni, ha fatto delle turnazioni Antonello, capito, gli ho messo a Pazzola. Tutta la parte movimenti terra e l'appalto che c'hanno a Zacchena del nuovo acquedotto sono fermi, non possono toccare nessun mezzo per uscire, niente. Anche il bitume, lo sai che c'hanno la trazione di bitumaggio, anche il bitume è fermo. Ok, è tutto fermo, tutto chiuso, tutto solo, non ho letto nel decreto, ce l'ho, capito, l'ho mandato ieri. Quindi è tutto chiuso, edilizia, tutto serrato. E me l'hanno comprato anche gli stessi solo per oggi, non è vicino. Cioè, guarda, tu apri il computer, io ho acceso quello grande, in prima pagina c'è la faccia di Conte, nuovo decreto, fermo Italia, a livello nazionale a partire da oggi, da lunedì, ok? Fermo Italia, vuol dire fermo Italia, non si muove più niente, solo supermercati c'è scritto, ok? Farmacie, parafarmacie, servizi bancari e postali, e tabacchi, basta, il resto in Italia è tutto fermo, non c'è nessuno che può dire ma, quindi il Togli è un bel attento. E vabbè, e quelli che devono, dimmi Antonio Giuseppe, chi si Cattari? E io lo so, sì, io il figlio, ci conosciamo, ho già lavorato una vita, il materiale noi lo prendevamo lì, io lo so, no, ma è un discorso che ho con Massimiliano, capito? Non con Massimiliano, con l'azienda di Massimiliano, che pare sia il dio dell'universo, visto Gastardo dei Gabrini, Vivaldi, Vedravaglia, tutti hanno gli appalti pubblici, sono fermi, nessuno perde niente, ci sono gli incentivi di perdita, e va tutto documentato, tutto fatto, non ci sono le proroghe per gli appalti, perché anche Acciona sta facendo un lavoro regionale che dove c'è il subappalto ufficiale turitana, quindi la capocommessa è Acciona ed è tutto fermo. Con tanto di decreto regionale, ok? Appalti pubblici rinviati a data da stabilire, c'è scritto, perciò non fossi a dopo, alla pagata a cura a terra. Avanti, oggi. Massimiliano si deve adeguare alla sua azienda, ciò che le dicono giustamente non è accolto, però a me mi pare di ghiaccio ora per gli attacchi di ghiaccio in gol perché non ve ne avrebbe. Se prendi Massimiliano salutare a Sorso. Hai visto quello, ciao Anto, hai visto quello che è morto di Ussi? No, no, ho letto solo la prima pagina di questi, però c'è scritto calo tra i... Praticamente c'è un calo, c'è già un calo di infetti in tutta Italia, quindi sembra che stia calando qualcosa. Roberto Price era un ambulante di formaggio, è morto ieri o avanti di coronavirus. Roberto è morto, quello che ci metteva la Brisci. Mi pare, quello un po' grassottello mi sembra, Roberto Price. Sì, sì, Roberto si chiamava lui. Sì, lo compravo anch'io il formaggio quando andavo a Nulvi. Lì si metteva la Brescia, c'aveva come si chiama? Non un ducato, uno scudo bianco, inventato. Bravo, Ghisua. Molto più piccolo di me, Ghisua. In quanto anni, Clau? È morto ieri. Perché c'ha il gatto di cosa? Hai capito? Eppure... Certo che lui aveva più contatto, aveva qui, aveva là, si avvicinavano tutti a quel formaggio. Poi, sai, gli ambulanti sono molto a rischio. Massimiliano, come un fratello, lì a dove? Lì da pigliarsi al culo, ma abito già rettondomi. Io sto a casa, malattia, tanto la malattia non te la tocca nessuno perché vale come quarantena. E ti togli dai problemi e dagli impicci. Fallo, non è rettomacco. Guarda, io sono in contatto con i miei colleghi, due perché stavano tenendo, purtroppo hanno un servizio tipo quello che avevo io, molto a contatto con la gente, utenze, qui e là, in giro, a destra, a sinistra, si sono messi tutte e due malattie, che uno è quello che ha sostituito a me, capito? La cosa brutta è che di Cagliari, quindi non può neanche rientrare a Cagliari, abita a Santa Maria Covina, se deve rimanere lì, ha ragione come te un cane. Cosa vuoi ti dire? Ma dice che questa cosa, cazzo, stava finendo, ma non quello che ti ha detto. Cazzo, due morti a tempio di polmonite. A Sasso, l'emergenza a Casa Serena, altri 5 casi positivi. Non lo so quello che avete detto, questa cosa che sta calando. Non c'entra niente, adesso hanno cambiato il personale medico, ma Massimiliano, non guardare le persone di 70 anni, 80 anni, di 90 anni. Quelli hanno altre patologie e sono più a rischio, capito? Qui si parla di tutta Italia, non della Sardegna. Casa Serena è chiaro, l'ha detto anche il sindaco ieri in conferenza stampa, è chiaro che sono più a rischio perché sono persone anziane, ma non è detto che muoiono. Attenzione, facciamo attenzione a una cosa, che non tutti stanno morendo di coronavirus, ok? Stanno morendo perché hanno altre patologie. Il coronavirus è un virus, sì, che attacca, ma se ti prende i polmoni, che tu già c'hai una bronchite, una broncopolmonite, o hai qualche altra patologia a rischio, è chiaro che non ce la fai, e quindi già l'età, già altre patologie in corso. Addirittura stavo leggendo che è morta gente di tumore e hanno detto che è morta di coronavirus solo perché è morta in questo contesto, ma non esiste, non bisogna fare allarmismi. No, io non sto facendo, io sto guardando quello che scrivo, no. Ma ieri, non so se ieri, quando è entrato Daniele in radio e mi ha detto che Sassari è pieno di vita roba. Ma come mai prima non si sentivano di tutti questi morti uno dietro l'altro, così polmonite, Guido, che dato, cioè morivano uno dietro l'altro così ogni giorno, no? Non lo so. So solo che c'è un casino nero, non basta, e basta e blu. Sì, Massimiliano, non sto certo a fare allarmismi, è in generale in tutta Italia che c'è allarmismo. È chiaro che se uno c'ha la polmonite e prende anche questo cacchio di virus, è più a rischio di uno che è sano, capito? cosa c'entra? Tutti quelli che sono contagiati, anche Paolo Di Bala è contagiato, ma va a 26 anni, è in quarantena, Rugani è giovane ed è in quarantena, sto parlando di calciatori, ma non è che si muore, se uno non ha patologie gravi, è un tranquillo, ne esci tranquillo, ne sono già guariti tantissimi, stavo leggendo, quasi 600 se ne sono guariti di quelli contagiati, ma non avevano patologie. È chiaro che se prende a un uomo di 85 anni che già soffre, per dire, di ai polmoni, oppure c'ha una bronchite o c'ha un tumore in corso, eccetera, è chiaro che dice bideccia. È chiaro che dice bideccia. Adesso questo ragazzo mi dice tu Roberto, bisogna vedere se aveva qualche altra patologia, magari aveva qualcosa ai polmoni, non lo so, era a rischio di qualcosa, e con questo virus è chiaro che dice bideccia, però non lo so. Avanti, tu. L'affatto rimane sempre in prima linea una cosa, è un disastro, su quello non ci piove, su quello non ci piove. Adesso alla Casa Serena hanno cambiato tutti quelli che erano lì, sono tutti in quarantena, hanno messo tutti gli OS, tutti i medici che devono stare lì nuovi, con tanto di precauzione, gli altri sono in quarantena, ok? Quindi c'è stato un riciclo. So che ad esempio in cardiologia i medici stanno migliorando tantissimo, ci sono tante cose in miglioramento, anche ad Alghero, mi stava dicendo mia nipote ieri, però bisogna stare sempre allerta, sempre dobbiamo rimanere a casa, su quello non si discute. Se tutti rimaniamo a casa, le aziende seguono il decreto legge, qualcosa cambia, se ognuno va lì sui ribiasi, allora addio. Guarda, il decreto te l'ho mandato, sono 6 pagine, leggitelo, vabbè, non c'è bisogno di leggerlo, ciao ragazzi, poi oggi. Ah ok, la prossima volta vi tagliano già la piscina. Poi, sì, una signora, uno di sì, è quello che praticamente ho visto al computer, è quello lì, sì. Giuseppe, no, non penso che ci siano problemi di questo genere, non penso, comunque se qualcosa c'è nell'aria verrà modificato sicuramente con qualche altro decreto legge. Con qualche altro decreto lei già futti di, non succede nulla. In Italia, in ogni regione stanno morendo 140 persone, miei ragazzi, ma non solo di coronavirus, stiamo attenti, stiamo attenti. Statistiche sono quelle, prima del coronavirus, in tutta Italia, in ogni regione morivano 140 persone, ok? Quindi di cosa siamo proprio denti? È chiaro che c'è un accumulo totale, c'è un cosa, come si può definire, coincidenze, chiamatele come volete, ma di coronavirus è statisticamente approvato che non si muore solo di coronavirus, devi avere qualche altra patologia grave per poter morire insieme a questo coronavirus. Non so cosa dire, è un casino il buco. Da poco andrà a finire il fuoco. Ah, così è. Fa bugarsi lo gocio, le api. E allora? Fa fumo, il bollo? No, c'era un po' di cuore, un po' di fegato, un po' di rene. E me lo faccio arrosto. Ma che non te lo vendi? Cosa ti vendi in cosa? Adesso mi ricordo dov'è. Stanno cercando reni, fegato, un cuore. Se muore lui, muori subito. Dici non lo mio. Storia arrasta. Caro Antonio Giuseppe, tu si sarei a Sussu, che torra, no, non penso più. Sto fendi groghi a Sassari. Come stamattina me l'ho fermato di nuovo. Sono andato al tabacchino in via Carlo Felice, caricavo il telefono e prendermi le sigarette, vabbè, quello l'ho dichiarato, e poi sono entrato all'Eurospin, faccio sempre così. perché se no entro dentro, che mi metto in vigia, poi c'è questo la D5, ti gioco uscito, provetta, tutto in regola, avevo il mio foglio, c'è scritto spesa e esigenze. Nulla, metto, non stia in giro, mi raccomando, no, non si preoccupa, metto una da casa, non c'ho manco una cisina da spendere, la giovetta in giro, però stanno fermando un bel, e fanno bene. Il 70% ci ha detto che sì, il 30% va alle casse della regione, ha detto che sì, un business, business a reddito, però loro stanno facendo loro bene. Io sono molto molto amico del comandante dei vigili, Gianni, capito? Me l'ha spiegato chiaro e tondo, perché io sono dovuto andare per delle consulenze che mi servivano per i cantieri Olbia, me l'ha spiegato. Purtroppo è così, prendere o lasciare, se capiamo quello che dobbiamo capire va bene, se no loro applicano la legge, perché se non la applicano sono cacchi suoi, e i vigili non hanno nessun interesse a prendere ordini dallo Stato, assolutamente. Ogni città ha il suo decreto, c'è il suo comandante, assieme all'assessore competente all'urbanistica e al sindaco che emana il decreto e fa la legge, e quello devono rispettare, capito? Non è lo Stato. Nessuno le dice tu devi fermare 30 macchine al giorno, loro fanno il posto di blocco e decidono a te ti fermo, a te non ti fermo, a te ti fermo, a te non ti fermo, oppure fermano a tutti quelli che vedono che camminano per contestare, se c'è da contestare. A me non mi hanno contestato niente perché non è regola, io sono nel mio quartiere, non sto uscendo fuori Sassari, ho un'esigenza perché io al tabacchino posso andare a caricare il telefono è un bene di prima cosa, perché è un bene di comunicazione, bisogna comunicare col telefono stando a casa, questo dice la legge, quindi, e poi a fare la spesa, perciò. Se però uno non è in regola, come è già capitato qua nel mio quartiere, la gente si muove a fa footing dal gas popolare, va in tutto il giro del quartiere, in tutta la ginnastica, tutti i giri. L'altro giorno si sono portati dove c'è la chiesa, la Rivemme, 206 euro a testa, così pane a rompere le balle. E non ho tanto ringrazio anche il comando dei vigili, che tu sei stupido ed imbecille, se non puoi uscire a fare determinate cose, non puoi uscire, se cazzo ti metti a fare footing, paga se votendi, devi rimanere a casa, punto e basta, capito? Noi qua, nel mio complesso, perché è grande, ci abbiamo tutti il cane, e siamo tutti dentro la sera con i cani si conoscono tutti, non si affarrano, tutti a guinzaglio, siamo dentro casa nostra, non andiamo nei marciapiedi o a passeggiare con i cani, non si può fare. Esatto, anche il giornale è un bene di comunicazione, puoi andare all'edicola, però, ti ripeto, anche a me sarebbe piaciuto uscire, fare... andare a casa Massimiliano, a bermi una berretta, a farmi due chiacchiere, non si può andare, pazienza, vai Massimiliano. E c'è anche il vino buono? Me lo di Purusci, no, il vino buono, la ce l'ho anch'io, la portata in aria, c'ho due bottiglie di Monica e un cagnolare di Sardegna, capito, però non ne sto neanche bevendo perché non usa biffi, così ha ragione, no, adesso forse mi... Se in settimana facciamo un po' di carne, faccio il freezer pieno, magari me lo becco un bicchiere, già c'è come vendeva. Se non ti muovi, voglio già una bocca di vino a casa. Io poco fa mi ha aperto una bottiglia di Mamontone. Mamontone è forte. Ci abbiamo brutto l'altro giorno, ma stavamo mangiando pancetta con Ilaria. Abbiamo fatto un po' di pancetta, poi capocollo e poi il salsiccione. Tutto a casa, no, l'abbraccio, che è una fragosa, l'abbraccio. E ci abbiamo bevuto, però c'avevo una petta di oliena che gli ha regalato il suo titolare. Ehi, andrà bene. Io oggi riprendi, finito l'albero di Natale. Mettici l'ultima pallina sopra. La pallina sopra. Vigrido, non è Vigrido. Se non sai cosa fa. Ma ci vedi al K stai usando? Bella modulazione, non toccare niente, non toccare, fare l'avvolto. Perché ho staccato proprio appositamente la toppalante esterna del il 440 sto usando adesso, ieri c'è avuto il giorno il 430, ed è bella, la modulazione è bella anche con l'altoparlante originale. Positivo, positivo, va bene, ok. E lì in zona di Sorso come arrivo? Bene. Chioce, piazza Gadea ne caggiuta Antonio Giuseppe. Ah, ok, no, va bene, va bene. E mai c'è un Antonio Giuseppe, c'è cioè Vanni, Vanni. Eh beh, Vanni. Ma a me mi piace anche quello di Sorso, molto, eh. Ti sei molto a Santo Buono mio. Io conosco Vannino, boh, Vanni, quanti anni ci conosciamo? La Madonna, il sugo. Non c'è più età, eravamo ragazzini. Vannino non beve nulla, aranciata e Coca-Cola, Eva. Sono scelte, oh Claudio. Io non sono un grandissimo bevitore, ma a me un bicchiere di vino a pranzo mi piace. Vanni, questo devi usare. Santiago 7, Radio 5 per me. Poi sicuramente sia Eugenio che a Massimiliano arrivi molto più forte e va bene, vero Massimiliano? A me mi arriva Santiago 9, Radio 5. Però le volevo dire a Vanni, adesso non mi ricordo, mi sembra che stavamo parlando di un M600, di quel microfono dell'altro giorno. L'ho visto proprio su internet e forse su un mercatino, lo stanno vendendo a 65 euro. Che lo conosci quel microfono? Mi hai fatto la connessione, mi ho fatto la connessione, imparimi. È uguale all'MC80, un pochino più stretto, è nero e c'ha il flessibile, capito? Flessibile. Dietro addirittura c'è anche l'attacco per l'alimentazione, dietro c'è il coso per il bip e per l'ecco. E io lo conosco, però io ti stavo così un po' frugando là, facendo, guardando. Questo Adonis 908, 110 o 120 euro costa? Sì, è un equalizzatore parametrico, è un barragione però, capito? Per parametrico e parametrico, per attaccare a quella radio lì io preferisco l'85. È un po' più equalizzatore quel 908, è un po', però è sempre parametrico, capito? Ha un bel ragione, hai visto lo spazio che prende, grazie, è troppo umano. A me non piace la verità. Ui, è meglio l'85, è un parametrico anche quello, è equalizzato bene, dovrebbe andare bene. Adesso rimane il fatto che tu ancora devi provare l'80, può darsi che quella radio lì con l'80 vada bene, però non abbiamo possibilità. Mandami un corriere. Sì, non avevo un corriere, uno esce, dice che va a farsi la spesa, capito, e poi tranquillamente uscire. Io in zona di Sassari posso andare da tutte le parti, io basta che non esca dal comune di Sassari, capito, quindi posso tranquillamente dire che sto andando a farmi la spesa. No, non funziona così, no Massimiliano, mi sono informato. Tu puoi salire a Sassari e farti la spesa se nella tua frazione, così chiamata, i punti, non ci sono le comodità, solo il supermercato c'è, non puoi salire a Sassari Massimiliano. Ho chiesto io al comandante Vigili Urbani, assolutamente, assolutamente, così mi ha detto e così ti sto dicendo. Anche se il comune di Sassari, tu da lì punti a Sassari, va bene, una motivazione valida, e non è fare la spesa. Ma cosa si dice? Non va a fine in Iraq, ma ti pare che posso andare a Sassari? Io sono di Sassari, cosa si dice? Fatemi la frazione e vado a farmi la spesa. E se io nella frazione non ci voglio andare, non ci vado, e vado in un negozio a Sassari, cosa si dice? Così ha detto, te l'abbiglia conmigo, io ho fatto la stessa domanda che tu stai facendo a me. Io mi posso spostare a San Giovanni, a Lipunti, per andare a fare la spesa in un supermercato di mia fiducia? E lui mi ha detto no, devi rimanere a Sassari. Poi al contrario, da Lipunti a Sassari, questo non lo so. Allora, diciamo che ti puoi spostare 100 metri da casa. Volugani però. No, Massimiliano, anche per la spesa. Mi informati. Ma cosa state dicendo, Lu? Ma allora se uno non ce l'ha il negozio a 100 metri rimane senza mangiare. Ma cosa si dice? A me chi non c'ha 100 metri, chi c'ha 200, però non puoi alzare Sassari, non puoi salire. Vabbè, io ti dico che fare che posso salire poi. Vedi quanti vi piace, io faccio parte di Sassari, no, io ho la residenza qua, ma io sono qua a Sassari. Cioè, tanto se non ho un negozio a 100 metri, a 200 metri, quindi io non mi posso spostare da qui, mi mangio la terra, mi mangio. Oh, a quanto so io, come stai dicendo Claudio, poi lo so in format per sicurezza, se mai ti fermo poi Massimiliano, e mi diamo da multa, Vabbè, io non ho detto, però se io faccio parte di Sassari, capito, allora 100, 200 metri, a quanto ho capito, puoi portare un cane, non ti puoi allontanare perché c'hai un cane a 100 metri o 200 metri, io ho capito così, ma se io devo andare a farmi la spesa e non c'è un negozio a 200 metri, cosa faccio? Muoio di fame perché non mi posso spostare a comprarmi la roba. Ma ce l'hai, atto di arma Massimiliano, ciò ti stai dicendo, però sei mal informato, è così, te lo sto dicendo, io ho fatto la domanda al comandante dei vigili urbani, al dottor Gianni Serra, l'ho detto, da Sassari, da dove abito io, che sa dove abito, va via la Malfa, io mi posso spostare a lì punti, gli ho detto proprio lì punti, per andare a fare la spesa in macelleria, da un mio macellaio di fiducia, da un mio... Ma ha detto no, viceversa non gliel'ho chiesto, ma penso che sia la stessa cosa, capi? Tu non puoi uscire da lì punti, nulla, come noi non possiamo scendere a lì punti o a San Giovanni o a Porto Torres, capito? Perché tu a San Giovanni puoi scendere perché fa comune di Sassari, Porto Torres è un comune a parte, quindi tu a Porto Torres non ci puoi andare. Leggetelo il decreto, cazzo, è uscito ieri, cioè viraggio meno, non è che non viraggio qua. Però a Sassari non lo so, perché tu a Sassari c'hai tanti negozi e quindi ti puoi spostare dove cavolo ti pare ti piace. Io da qui non ho tanti negozi, quindi io posso dirle, io vado a Sassari nel negozio di Pisa. E loro non mi possono dire il contrario, capito? Io tu a Porto Torres non ci puoi andare perché non fa comune di Sassari, hai capito? Sì, dal comune non puoi uscire. Ma c'è di prima ripunti, anzi, che a ripunti ti pare a Pisa e da poi torna a casa tua. A comprendirla, il più vicino dicono loro, il più vicino negozio che c'è. Non parla di negozio, Natali, non parla di negozio più vicino che c'è, parla che non puoi uscire, se io sono di Sassari non posso uscire dal comune di Sassari, questo parla il decreto, no? Il negozio più vicino che c'è, poi non lo so, riprendi oggi, cos'è che stavi dicendo? Circondario per fare la spesa è una cosa, che non può uscire dal comune è un altro decreto, quello è un altro decreto. Le esigenze del foglio che tu hai dell'autorizzazione, c'è scritto in quello dei tutti i comandi di polizia, carabinieri, vigili urbani, vigili del fuoco, corpo forestale, addirittura anche i baraccelli sono in campo, le guardie zoffre, ci hanno scritto che non ti puoi allontanare dal comune di residenza, ok, quella è una cosa, per fare la spesa nel circondario più vicino, a tu ci vuoi scritto me. Sì, comunque ci vuoi sì. Vabbè dai, già passa, dai, abbiamo pazienza, cioè dobbiamo avere pazienza tutti quanti, però se ognuno si fa i cavoli propri allora no, la cosa va male. Purtroppo c'è gente in giro, tu se ci venisse un bene, a lampadura. Ma rimane se ne hanno buttato 4 nella via 7 di Garbonazzi, 4. Due pattuglie dei carabinieri seduti e portati via. È una settimana che le dicono, si siedono, nella piazzetta dove ce ne dico, la piazza Aldomoro, no, non dove ce ne dico, la piazza Aldomoro, che io la vedo da qua, a birra in mano, tutte e quattro, tutte e cinque, una attaccata all'altro. Mi hanno detto già 6 volte, alle mani sono arrivati 2 battuti con rampeggianti e si hanno imboccati tutte e 6. E avanti quando basta Massimiliano Vito, sono in vista, ha spiegato 2, che ti vuol dire i personaggi? Le persone. Roger Natali che è parlato assieme a Luca. Senti, devo stare a casa, non hanno capito che è una cosa seria, che ti devono ammazzare i baritari. Sì, ma infatti la nostra preoccupazione è quella, è meglio salvarci la vita che tapparci il culo, come si dice in gergo sporco. Comunque è così, io la domanda l'ho fatta e la risposta me l'hanno data. Io non ho questi problemi perché sono qua vicino, ho sia la Sisa che l'Eurospin a 200 metri da casa, praticamente devo girare solo il circondario. Per chi è a Ripunti, per chi è in campagna, addirittura un collega di mio fratello, questo Massimiliano, che abita a San Giovanni, per farti capire, forse prima o dopo Sandro, la casa di Sandro, la madre di Sandro, le stanno portando la spesa a casa, li chiama Limi agli punti, chiama alla Cobra che degli punti, chiama e le portano la spesa a casa. Lui, ripeto, ognuno la interpreta come vuole, per carità, io so questo e mi rimango a casa. Mio fratello lavora all'ASI e si è messo in malattia. Anzi, non si è messo in malattia, sta lavorando da casa, c'ha il coso, viso di chiamata, non lo so. Quando squilla il telefono del suo ufficio, lui risponde da casa. Si è portato tutta la documentazione a casa e l'uomo sta lavorando a casa, perché gli uffici dell'ASI a Corte Santa Maria sono chiusi. Comunque a me mi piace già lo sai, no? Sì, ma a me mi piace un bagliare di pollo. Cosa pensi? Non sai di sia già mangiarmi due di pollo arrosto, o tu pensi che timo il carabinieri la polizia? Temo che mi facciano 200 euro e sono un coglione se me li faccio fare. Non ti muovi, ma rechiami. Sono una merda, ma non è una butta normale, vai, penale. Oia, vabbè. Ma comunque da una parte non è una cosa buona, perché non ho mai sentito di lunedì tutta questa gente in radio. Questa va la radio tutta la mia attesa, Ma chi è? Vanni o è l'altro? Eia. Vanni, mi senti? Ciao Vanni, buongiorno. Mi hai sentito un po' tanto. Signore, non è Radio 2? Luca dal Monte, Vanni. Sì, anch'io ho sentito una cosa del genere. Addirittura è stato un esperimento su un pipistrello, una cosa del genere. Sì. Sì, Antonio, stai uscendo, ma molto, molto male. Covid-19 è già sperimentato da anni, capito? Questo coronavirus l'hanno messo loro, nome tecnico. Antonio, stai uscendo malissimo. Sì, anch'io comunque l'ho sentito questa storia, Vanni. Ed è anche una storia molto interessante da ascoltare. È molto interessante, Vanni. Lo stava guardando anche mia figlia. È proprio così. Il Covid-19 è un virus che è stato praticamente inserito dal laboratorio. Vabbè, e se vogliamo buruguito, forse l'America ci vuole distruggere, cosa vuoi ti dico? Vediamo un po' chi ci è rimasto. Antonio José, ci sei ancora? In cazzo mania ne bevende, ya se vemo vedeci, ciu. Sì, grazie a Dio sì. Io guarda, in giro di 20 giorni, perché già ero un po' ristretto da prima, ho perso quasi 5 kg, pancia molta, molta poca, anche perché c'è mia figlia a casa, quindi stravizi non ve ne è. Allora, oggi lenticchie, natali, ceci, albue fagiolo, poi un bel di legumi stiamo mangiando. E anche no, è buono. A me è roba sana, tutta cruda, no, a me piace. Lenticchie le mangio volentieri. Capito? Poi stanotte vediamo cosa fare. KK, dai, riprendi, a chi spetta? Eugenio, riprendi tu, dai. Mi sono arrivati un paio di messaggi, me li leggo. Che si viveva a Medutrovino ed era ancora in costruzione, che sciagantina. capito? Io se tu mi dici le vie di Polottolesi non so manco una via più di Polottolesi, lo so girare però non mi dire le vie perché non lo so. Io sono a Sassia dal 1983, fate un goto. Veramente un gabbere quando parlavo di la Gennari andare all'impianto, ma in tv di dove la ci ha messo, fai lo stesso che ci fermiamo a saltare un amico. Cresci Maria, ragazzi. Rientrava mi gatta a timbrare, vabbè, dobbiamo timbrare, oh, se non mi andate, tu andare a timbrare, nella cottura, asciuga, Vinaredo va, fa come ero, oh Massimiliano, ma vino buono veramente, asciuga, l'asciubianco era una cosa pazzesca. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao prof. Quando passa questa roba, già ci andiamo a provarlo, va? Stringeremo gli anni. Antonio non perché sia presente, però ne abbiamo fatto lì, conosco una vita, era ancora in costruzione in Chivi, era ancora in costruzione, lui abitava Salendo per andare a Sennori, e stava costruendo lì, io tutti i santi giorni passavo. Mamma tua, no, Giallini che ero, non mi ricordo se ero Giallini che... No, stavo trovando la Santa Teresa, cazzo ragazzo, era lì, oh Massimiliano, stavo trovando la Santa Teresa Gallura, aveva con Benassi, stavo lavorando a Porto Pozzo, così mi tradita, e rientrando la sera, ricordo che era, comunque era già buio, il ragazzo, il rettile Marrisa, siccome lo conoscevo la macchina, e cazzo fa come, oh è Buntu di Varigas, gli ho montato la bagliante, cazzo cominciava a rallentare, non mi dico quella mano, cazzo, gesticolando, cazzo ti ho preso la mano, e si fa in mezzo carriera, oh, ma mi hai rompito, cazzo mi stavi a me, vai santo, no, ma cazzo non mi prendo, mi rompi, ma è male. Signore, io vi lascio, vado a mettere a fuoco qualcosa, no, vado a accendere il fuoco, no? Ci sentiamo le prossime, un saluto circolare a tutti, magari a dopo pranzo, ciao. Ciao, adesso vi lascio per Gianni, ciao Massimiliano, saluto a casa, stai sereno, mi avete un po' questo signore cosa vuole fare. Sì, sì, ma ero già a Leni che ho fatto con me, perché ti ricordi venivo all'UCM con la panda della San Progetti e lì ci mettevamo d'accordo per salire, per vederci, dai. Quindi ero già a Leni che... Va bene, dai, cambio per Gianni Lubrofetta, vai già. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Circolare. non so chi c'è in rotta, boh, vabbè. Niente, tu saprai meglio di me chi c'è, boh, ti lascio il mic, dai. Hai visto lo schifo, sì, claro. Ciao già. Luca, buongiorno. Hai visto, claro, lo schifo? Sì, l'ho visto. E appunto c'è. Sto coccone a vero. Sì, becco Italia, avanti. Sì, che ti ascolto. Ciao, buongiorno Serbia. Se sei dalla Serbia, 5859 segnale per te. Grazie per il controllo 9+20. Io sono Claudio, trasmetto dal nord della Sardegna. Ok? Avanti il break e buonasera, anzi buongiorno. Buongiorno a tutti, dai, mi sentite tutti quanti, Gianni Doppio Rum che mi super cordializza. Grazie del super cordializza, buongiorno anche a lei, ben alzato e ben trovato. Allora il cambio per Vannino a far girare, vai Vannino. Vannino non riprende, che è impegnato al computer, a chi spetta? Un momento più che a me, Luca riprendi. C'è il profeta. Ciao Gianni Nannini, buongiorno cara. Ciao anche a te. Che ci sia Gianni Profeta lo sappiamo. C'è anche Eugenio. Allora Eugenio riprendi. Buongiorno. Allora, mi sembra che ci sia Gianni che è l'ultimo entrato, poi Gianni lo Profeta, Antonio Giuseppe l'associo, Luca, Eugenio, Massimiliano ha chiuso, poi non mi ricordo, c'era Antonello anche che stava facendo le prove e c'è anche Natalino che le rimetto al cambio. Natalino, anche il cambio vai per Gianni lo Profeta. Passando stato tutti, dai, io devo andare a pranzo. Ci sentiamo alle prossime, là. Se non cucino non mangiamo. Ciao Natalino. Eia, ok, va bene. Allora, se volete far girare questo questione, quando vi chiamo riprendete, se no non si capisce un cacchio. Gianni lo profeta, riprendi e vai per Antonio Falconero di Sosso. Eia, eia. Io sentivo bisbigliare, non so se era lui poco fa, ma qua arriva molto ma molto basso in mezzo al QRM, non so se lui mi copia Vanino di Sosso avanti. No, Vanino non ha ripreso, in cambio aspetta per Antonio Giuseppe, vai Anto. Sì, perché io a Lenica ero a Lenica nel 77-78, 77-78. Nell'82, nell'80, 80, 81, 82 sono passato con la TAM, con la TAM Progetti, che venivo con la Panda lì all'impianto tuo, sì, bei periodi, va bene. Il cambio per Gianni doppio rumo, allora vai Gianni. Ehi, saluto l'Antonino che non ha fatto modo di salutarlo prima. Andava bene. Che ti passata sopra. Ci giriamo, non li troviamo più. Sì, ma stacca, non c'è bisogno perché si saturo. Tanto. Io basso, mi ascolti. Aspetta, una alla volta. Aspetta Luca, cosa hai detto? Diane 6 beige ci avevo io, Diane 6 beige. Con l'antenna attacco grondina a sinistra. E tu vai sinistra con l'antenna a centro. Perché ho conosciuto la macchina, ogni tanto si cazzà. Sì, stavo rientrando da Santa Teresa, lavoravo con Benassi, ex socio di Allagio, presidente della Torre, eravamo lì a Capotesta, no, finendo il villaggio. Ok, cosa hai detto Luca? Riprendi e fai girare tu? Oh, mi sembrava Valmiro, Antonio Giuseppe, mi intendi? Antonio Giuseppe. Falcone, ma non lo senti a Luca? Ma mi intendi? E tu cura, sì. Ma giuro che sei tu cura. Non puoi scimmia, lo sai, no? Siamo i loghi da Rescani. Uno è fa vendendo, perché c'ha l'ecco. Si vede che tu cuno un grafo. Antonio Togua, sei tu cano. Dai, cambio, aspetta Gianni doppio room. Vediamo se è attaccato, poi vai per Eugenio già. Sì, c'era tipo la domenica, la croce. E volevo vedere se arrivava. È sparito, Dove più 20 mi ha dato a me. Santiago 9 Platz. Va bene, allora li avevo io il cambio, Eugenio, vai. Eugenio, vai. Lasciate perdere, può essere, non può essere. Qua la Santiago 7-8, non so, se è dalla Serbia, se è da Serbatoio o cos'è, non so, vabbè, comunque. Facciamo questo locale poi, che voi tra entra. Chi è che c'era ancora? Allora, no, siamo tutti qua. Il cambio per Antonello di Ossi, ci sei? No. Vannino, ci sei? No. Massimiliano è andato a cucinare, quindi la ruota ci siamo. Io, Gianni doppio room, Luca Belmonte, Gianni Rubroffetta e Eugenio e Antonio Giuseppe. Ok, allora il cambio per Gianni Rubroffetta. Eia, volevo chiedere all'amico di socio Falconero se riesce a copiarmi. KK, tu sei Santiago 4 e la radio è molto bassa lo stesso, riesco malapena a sentirti in mezzo al QRM, comunque salutoni da questa parte e niente, andavè, dai, avanti cra. KQSL, molto bene, importante ci sentiamo, vai. Se arrivate di radio, non di segnale, non è un problema. Antonio è in una posizione molto critica di sorso. Io riesco a sentirlo Santiago 7, 8 quasi, radio 5, perfetta. Allora, cambio per Eugenio, che era in stand-by. Vai Eugenio, poi vai per Gianni doppio room. Qua non ho toccato niente, è tutto come al solito, anche a te ti sento un po' basso rispetto alla media, non lo so, sarà il tempo, sarà la giornata che non è così favorevole, cosa vuoi ti dica? qua è tutto assolutamente come prima, non è stato attaccato una virgola. Va bene, avanti Gianni, buongiorno, non ci siamo salutati poco fa e volevo salutare Natalina, vabbè, non so se ne ascolto, comunque, avanti già. Se la Bertone si è dimenticata di lanciare per fare il servo di Robert, non c'è problema. E niente, dopo mi arrivi 9.25, quindi va benissimo, là. È arrivato come se fosse un'antenna di quelle grosse, là. Sta arrivando molto bene, non c'è problema. E allora, come è andata oggi? Dai, eri di me, dai, che è andata bene, dai. Come perché la fanno sempre con le mascherine e ti equipaggiare? Poi, è un casino, adesso ho visto anche a casa Serena, anche a casa... hanno trovato un caso, sono tutti in quarantena là attorno. Quando prende questi istituti fa la passa, poi sono tutti anziani a casa Serena, poveraccio. Allora, un attimino, il capomaglia sono io e comando io. Niente ping pong, a girare, ognuno fa la domanda e dà la risposta. Il microfono aspetta a Luca Del Monte, vai Luca. Oh, volevo dire a Gianni, so ci lavora la sorella di mia cognata, hanno chiuso. Dove hanno chiuso? Casa Serena. Non lo so, questa è la prima cosa che sento. Il cambio per Antonio Giuseppe, che forse fra un po' dovrà chiudere. Vai Antonio. Ciao Antonio Giuseppe, a girare Gianni Doppio Rumo per i saluti. Ciao Falcone, ci sentiamo, dai, buona carica quando la fai. Stasera siamo qua, quando vuoi entra, non è problema. Ciao, buon pranzo. Avanti a chi aspetta. Vai Eugenio per i saluti. Ciao Falcone, buona carica, dai, alle prossime. Vai Luca. Ehi, ciao Antonio Giuseppe, dai, sammi re, mi raccomando, se mi va a vedere di noi, cappa. Allora, con il vostro permesso mi sembra di aver registrato un break o qualcuno che ha pigiato la portante. Vediamo che vuole entrare anche alle 10, avanti. No, Antonio, non ci siamo. Col permesso del QSO non ci siamo. Nel modo più assoluto, devi riattaccare l'altra radio, perché questa è veramente impressionante. Sei cupo, sei rauco, sei saturo, non si capisce un cacchio. Allora, conferma per Gianni Doppio Rum, vai per Antonello. Ehi Antonello, confermo che così. Si sente tutta quanta come se fosse fuori frequenza, tutta rauca, la voce. Insomma che abbia linea attaccato. No, c'è qualche media frequenza spostata sicuramente. C'è una radio vintage, può essere solo quello Antonio. Si tratta di rimettere un po' in sesto tutto. Non penso sia microfono perché se proprio mi sono spostato con il VFO ti ascolto quasi a 85. No, 27.075 era quasi a 85, sei 10 certi fuori, sono tanti. Ok, va bene, a girare allora per Gianni Rubrofetta, vai Gianni. Ehi, io l'amico di Ossi, Antonello, sento un borbottio in mezzo al QRM, non mi posso esprimere, dai. Sento solo un borbottio in mezzo al QRM e ciccia, quindi non, insomma, ripeto, non posso dare nessun giudizio, dai, avanti qua. Quercelle, molto bene. Allora, mi pare che Eugenio aveva qualcosa da dire con te. Vediamo, Eugenio, ripasso il cambio, hai qualche problema con Gianni Rubrofetta di segnale? Ok, perfetto, lasciamo al tuo ribianco. No, qua posso garantirti che Gianni, per la situazione in cui trasmette, è abbastanza valido il segnale, nonostante sia molto ma molto vicino a Gianni, a 5 dB in più, perché siamo praticamente quasi 6 punti S. di più rispetto a me. A me mi arriva 9 più 20. 9 più 20 è un ottimo segnale per come sta trasmettendo, quindi io non noto nessuna anomalia. Evidentemente ti è calata un pochino la ricezione a te oggi, sicuramente. Ok, allora Antonello sta vedendo quella cosa e cambialo per te Luca. Che punto c'è in questo televisore? No, ho lasciato tutto, sta aspettando che mi portano l'altro, capito? Che ha un difetto sui LED. Se sta col pannello lo piazzo qua. Sono sicuro che funziona, 1000x1000, perché l'ho già fatta la prova. Bene, bene, allora cambio per genere doppio room e tu cosa ci racconti? Cosa hai fatto stamattina? Io guarda, ho preso. C'era un numero unico per ordinare la spesa a casa. Ho fatto 30 volte questo numero, non risponde nessuno, è inutile che mettano in servizio se poi non lo fanno. Mentre invece la frutta e verdura sono riuscito a ordinarla e me la devo portare a casa. E in più ho telefonato all'ospedale per vedere se stavano facendo le visite, abbiamo dato conferma di sì, quindi 30 io devo andare a fare la visita, non c'è problema. E mi sono sbrigato tutte queste cose. E ho fatto la lettera per la dottoressa per farmi mettermi le medicine, tutte queste cose qua, là. Ho messo a posto gli uccelli, insomma già mi è passata la mattinata. Sono stato appreso per questa storia della spesa e non ci sono riuscito lo stesso, il vicino me le scatole perché ha fatto la spesa Liliana quando c'era 2 giorni fa, qua c'è Marco e mi invata un bel. Non capito, quindi la spesa la stai facendo praticamente ogni 2-3 giorni, non settimanalmente? Sì, ma la sto facendo grossa, solo che qua ci sono persone di buon appetito, il fatto è quello, che le mozzarelle spariscono, il gluten sparisco e molte cose le devi comprare, dai, la cosa tipo pelata, questa roba qua ci sono, però la roba per far bere è cosa, ci vuole. Sì, si conferma, anche perché facendolo settimanalmente rischi che magari qualcosa scala, come le mozzarelle, come insomma le cose di prima necessità, il latte, queste cose così, tutto il resto si può congelare, è così, va bene. Allora, Gianni, ti lascio il compito, visto che sei più anziano, di fare andare la ruota, io mi devo allontanare un pochino, che mi stanno chiamando dall'altra parte in cucina, ok? Quindi ti lascio il compito di far girare la ruota, io sono qua comunque, è tutto acceso, va bene? Allora il cambio di nuovo per Gianni, a proseguire a chi tocca dopo. Ci sentiamo tra una decina di minuti, vai già. Va bene, dai, se devi preparare, vai, tranquillo. Poi, avanti, non calare, prendi poi per girare. Via. Stamattina abbiamo fatto un po' di cosette, dai. Sono bruciato anche il dito con saldatore. Ho recuperato un po' di resistenze, qualche condensatore, una roba vecchia da buttare, no? Niente, adesso sto aspettando che portano sotto la TV per imparare questa che ho a casa. E poi già trovo qualcosa da fare, dai. Tanto già ho un po' di roba da buttare, la roba non mi serve, dai. Faccio il carico, ci vado qua dall'altro parco un attimo, ci butto tutto. Vabbè, si cerca sempre di fare qualcosa, l'altro giorno stavo salvando, mi ha appoggiato il filo sopra il pantalone del pigiama e non mi sono accorto che mi sono dato in mano, che avevo bruciato il pigiama. Sono tutto mitragliato io. Tu pensa, la prima volta telecomando, 3 volte c'ha 3 bruciato questo telecomando dal televisore, ma come c'ho il sempre originale questo qua, no? Poi c'ho il suo originale nel cassetto, nuovo. Finché va lo uso, poi non funziona più sul lampo. Sai che è bruciato la saldatore, te ne dimentichi già, molte volte ci metti il piede sopra, perché se lo metto nella basetta si scioglie perché ha la plastica, no? Si scioglie, si spezza in 2, capito già, ma ci vuole c'è 4 vitti lì davanti, se lo blocca. Poi si riscalda, essendo plastica poi si piega. Avanti chi chiama? Scusate, mi sto parlando con Marco qua, un attimino solo. Ma sto uscendo, sì, Gianni, che sì. Iappa, iappa. Io il piccolo piccolo proprio non lo sento per niente. Questa va fatto dicendo il lugare. Questo numero unico che hanno fatto per la gente che ha bisogno, che non può uscire eccetera eccetera, hanno fatto il numero unico Eurospin, Mura e mi pare la Cona. Beh, fatto sta che non risponde nessuno, te l'hai fatto 50.000 volte per dire la spesa e nessuno risponde. Aspetta già che c'era Gianni che il profeta stava dicendo roba, chi è che lo senti? No, stavo dicendo che Eugenio ha detto che ce n'era uno piccolino e voleva entrare, ma io non lo sento. Ma quando ti arriva Eugenio a te? A me qua Santiago 6-7 oscillante. Eugenio, come lo senti tu a Gianni il profeta? In confronto a me, che arriva più forte lui o più forte io, cioè o meglio io? Quindi, la posizione, il cazzo giù la mano, non va giù l'antenna minoretta, ma ti verrà detto, è quello, è la posizione, allora. Positivo Cavarroggio, non ci stanno problemi, dai, gatta. No, ma dico, vabbè, io ripeto, c'è un passo davanti già, Luigi, c'è un passo davanti, non è che posso pretenderti tanto, magari per Arghero sono più positivo, ma io mi ricordo che a Gianluca gli arrivavo intorno ai 9 lo stesso, 8-9. Vedere se riusciamo a far entrare questo passo che c'è. Avanti, chi vuole entrare su 10, che ci sarà peggio, dai. Riprende, il profeta. Eia. Cosa volevo dire? C'è una... Il rumore di fondo oggi stranamente si è alzato più del solito. Infatti anche io faccio un po' di difficoltà a sentire Eugenio, nonostante abbia il segnale oscillante da 6 a 7, però c'è il rumore di fondo che è abbastanza alto, non lo so, rispetto agli altri giorni oggi è un po' più diverso, insomma. Sicuramente le condizioni atmosferiche sono diverse oggi, sicuramente per quello, non mi viene in mente altro, dai, Eugenio. Avanti che vuoi entrare. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno? E allora è di a Portotorre. E che ci è rimasto grazie a Portotorre? Mi sa come per nessuno. Beh, Eugenio, come per nessuno. Lascia prangiare a me o il profeta? Vabbè, se vogliamo entrare siamo qua. Oh, yeah. Siamo quasi, che ore sono? Mezzogiorno e 20. Fra un po' vi lascio che devo andare a preparare qualcosa. Perché io non mangio niente. Luca, oggi cosa prepari di buono? Allora, io ho avviato il pollo in verde, poi un po' di pasta asciutta già, pasta al sugo, farfalle, buona riso, e poi non lo so, un po' di salata, frutta. Camara, ti passa. Invece c'è il pollo a sughetto piccante, faccio un po' di salata e prima non importa. No, prima non posso mangiare, mi fa male. Vabbè, già io che posso mangio, voglio un bel cartozzo e poi sono a casa, almeno sono dalla 25. Ah, la e rimango qua già, siamo che è un casino, di Vemani, non ho giusto da rigare allo Stato. E parla, che cosa ti chiari quando vai alla 25? Beh, posso dichiarare che io stavo sempre lì, ho la roba da vestire lì, dovrei scendere a recuperarmi uscire qualcosa, cosa forse, anche se non devo uscire, però è una roba per cambiarne, ma c'è un cambio qua, forse più di uno, là. È un casino, non conviene rischiare. Tu e Piccola non hanno fatto picciare la carica. Ha telefonato una palazzo che ti ha viste tutti e due vicine, parlando, facendo la chiave, che era finita la litigare. Giumaetti, bisogna rispettare le regole, se c'è una regola bisogna rispettarla, è inutile che uno vada lo gradasso. Ma perché fa? No, perché per colpa di questa gente qua stiamo ancora piangendo lui, è capito? Questo lo sarebbe vinto. Invece c'è sempre gente che scappa, che gira, che fa. Addirittura uno l'hanno fermato, i carabinieri, ecco che lui non intendeva rispettare le regole del governo. Veniva molti vasi di Cina, ma non è che le regole le rispettano. A Manganello la viene qua, io ti chissà figura che non c'ha un motivo, l'avrei picchiata a Manganello, così almeno fa. La gente deve capire che quando uno esce, deve uscire per un motivo valido, no? Ma da fumarsi la sigaretta pura. Basta fare. Basta che, non so, a sanzionarli bene e una bella condanna, ma dai che rimangono a casa. La sanzione è poco, perché se uno c'ha soldi si paga la sanzione e non continua, e continua a fare i soldi di piano. Come la vedo mangiare la tacca? Non è così, già, uno non è regalato in così, no. Io sono più sicuro che ne ha più uno povero, povero, che uno che ne ha. Oh, yeah. Guarda che se c'è l'ordinanza bisogna rispettarla, perché vuol dire che c'è il motivo se c'è l'ordinanza. Questa gente qua non capisce che oltre fare del male a loro, fa male anche agli altri. Basta così, allora, sei come se avessi un lineare che ti sta facendo uscire male. Ma non capisco. Avanti, l'attenzione, chi sei, avanti, QRZ, è la stazione doppio lunga della città di Sassari, in nord di Sardegna, che ti super cordialmente, avanti. Attenzione collega, se ascolti l'operatore doppio lunga della città di Sassari. Attenzione collega della città di Durata, se ascolti la città di Sassari, in nord di Sardegna, Italia. Della città di Sassari in cambio Albi è sparita, è sparita la propagazione, non Durata, dove? Albania, Durato, in Albania. Ma Rattalino, qual è, non stavo cercando il paracchino che c'è tu, qual è il modello? Allora, ZX40 Pro della Polmar, è bellino come paracchino, solo che parlo microfono che non mi piace. Allora, ZX Polmar. Allora, Polmar, ZX 40 Pro. Ah, l'ho visto, c'ha il display celestino. Si può aumentare la potenza dei canali. E c'ha tutte le città, cioè Italia, Francia, capito? Oh, raga, entro, scusate. Per me QRT, dai, un saluto alla circolare a tutti, buona carica e ci aggiorniamo, ok? Buon pranzo e magari ci sentiamo più tardi, ok? Ciao ciao! Ciao, numero 6, io me la sto mangiando, va, ci sentiamo, ciao a tutti! Ciao, ciao! Vediamo un po' se c'è Durato ancora, attenzione Durato, ascolti la Sardegna, città di Sassari. No, la mia foto del profilo è una, allora c'ho la foto, una camicia bianca e mi sto facendo la foto dallo specchio. Sì, comunque sono io anche quello, ho capellino che è da sole, sì, sono io. Ma tu sei Eugenio, sì, su Facebook? Non ci sei come Eugenio. Allora, Eugenio, c'è cioè Romano, Cusulai, Cocco. Ma voi non vi sei allora. E la barba c'è un pizzetto. camicia bianca, sì. Pantaloni macchiati di valicchina. No, là, sono fatti apposta. No, non sono io. Con Capotti che so, guarda. No, non sono io. Guarda come con l'altra foto c'è... Io porto la Madonna. Guarda, vada. Se mi dici cognome ti cerco io. Cazzo, mi sono 50.000, Eugenio. Chi hai come amico di Borrita? Ce l'hai Rita di Vesilio? Aspetta, non so se c'ha gli amici, vedo un po', allora, no? Aspetta, sì. No, ma no, non me lo dà. Me lo scrivo oggi e non ci sei. Borrita. Trovo anche a Stefano. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna, città di Sassari, la chiamata si sintonizza l'ascolto, brecco, brecco. Attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna, la chiamata si sintonizza. Con la P il cognome, è Uge. Con la P è il cognome. Non ce l'ho Roberto io qua. Sì, io questo Sons of Anarchy. Come ha trovato l'amicizia? Positivo e Cavarroia, non ci stanno problemi, già ne dobbiamo rumbo di pranzi, già ne dobbiamo profe. Su profe. Se anche per dire un po' con tre ore ci saranno anch'io. C'è punta che la frequenza, se non c'è manco più propagazione, adesso che punta. E nemmeno. Positivo e Caparroce. No, è la Madonna quella. No, negativo, no, so con un pari cantarese, so troppo vecchio. A parte che c'è la schiena messa male, oh. Allora, la Madonna è la Madonna. Quest'anno è il quarto anno alla porta, se Dio vuole. Chi è Tino? Attilio, e chi è? No. Luca, ma così, parati di quei punti che ci hanno iniziato a diventare da poco poco di Assonso. Che avevo? No. Negozio da diventare. No. Franco Putti. Ma poi Putti che viene un bel, mi chiama Fittaggi, il nome di Ete che si chiama Putti. No, negativo, no, non sono parenti miei. Cioè, stavo bussando la porta. Putti, che lo sai cos'è? Il Putti, diciamo, su Putti. Cappello. Anch'io, ok, sì, buono Gian, se poi fa fai il riso con i carciofi è ancora più buono. Noi facciamo le pennette con i carciofi, oppure le orecchiette, insomma, pasta corta, molto buona. E anche io, ma guarda, non le vedo, perché la pasta a me non piace. Faccio il soffritto con le cipolle, con i carciofi e il condimento lo metto nella pasta. Guarda, non le vedo, perché non mi piace la pasta. C'è sempre stato la panna, c'è stata la panna in 10 anni, soffritto nel carciofo, cipolla, e va bene così. No Antonè, no, non va bene, non so, Giulio, come lo senti Antonello? No, ancora non lo sento. No, poi anche la frittata di carciofo è buona, Gianni, la bella frittata di carciofo, è buonissima. Quella non l'ho mai fatta, piccola frittata, no, frittata di carciofo non l'ho mai fatta. Maniera, o che sia stato fortunato per altri motivi, senza per questo destino là. E non c'è rimasto nessuno, primo, tu e Antonio, basta, non c'è altro. Grazie, sono tutti questi là. Avanti Antonio. Ok, ciao Antonio, ciao. Ricambiato, beh, il buon pranzo. Alle prossime, dai. Eventualmente stasera se coincide. Quattro chiacchiere ce le facciamo ugualmente, dai. Se Dio vuole. Avanti qua. Se mi avete chiamato riprendo, però vi lascio, dai. Ci aggiorniamo stasera, tanto oramai gli appuntamenti sono qua al canale 10 e questo mi fa piacere anche di mattina. Buon pranzo a tutti e ci aggiorniamo stasera, ok? Stessa ora, stesso canale, va bene? Buon pranzo a tutti, un abbraccio a tutti e buona quarantena a tutti soprattutto, ok? Ciao! Ok, ciao qua, ciao! Alla prossima stasera! Buon pranzo, dai! Sì, chiudo perché sono rimasto da solo, dunque, e poi è quasi l'una, per cui l'una meno 10 circa. Pertanto è questione di pranzo, tra qualche minuto, tra alcuni minuti. Bravo, ciao, alla stasera, ciao, ciao, ciao, dai, se ci sei ancora, ciao! Ehi, ciao a tutti, a Vopra, ciao Giulio. Ciao, ciao, circolare a tutti, sì, ci sentiamo stasera, dai, intanto non lo dici, io vado e vengo dalla cucina qua, però adesso mi stacco, dai, così ho parecchio e preparo. Ciao a tutti, a stasera, KK. Positivo da mano, io ho l'audio, vabbè. Prova a fare quella modifica, Lucia, ce l'hai il microfono del 48, a vedere se riesci ad avere una radio un po' più corposa, perché è bella, è molto bella, non è brutta, però quella di Massimiliano mi piace di più, più corposa. Sì, adesso appena devo, adesso mi sistemo prima il televisore e poi devo rimanere, tanto ho preso di rimanere a casa anche domani. Già in setta, perché in 5 si va in setta, si va più baetta. Mi cerco qualche capsula diversa, dai. Poi vediamo, facciamo le prove. Va bene che va bene, stasera cambio. Sì, a cambia di cade. Ok, ciao, ci sentiamo alla prossima. Ciao di nuovo qua, alla prossima. Ciao Giulio, anche a te buon pranzo, ciao.